guarda la luna nel cielo, guarda la luce del sole. Poi dimmi cosa la induce, dimmi chi glielo dice di fare così. Dal nulla la materia che Yahvé creò, dall'eternità la storia che Yahvé creò, dal buio questa luce che Yahvé creò, dal cielo la mia vita. Creò il mondo e disse: sono tutte cose buone. Quando creò la donna e l'uomo, disse: cosa molto buona. E ora crescete e moltiplicatevi e costruite sul vostro amore.